Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, con tutto il rispetto per Manchester e Bayern, senza dimenticare il Lione, nemmeno il Bordeaux, Inter-Barcellona ha tutta l'aria di essere una finale anticipata che si svolgerà su 180 minuti anziché su 90. Così come Leo Messi ha sempre più l'aria di essere avviato verso una dimensione assoluta che potrebbe portarlo a scalare il podio dei tre più grandi di sempre, Maradona, Pelé e Stefano. Ma trattandosi di argomenti impegnativi, per esaminare i quali serve anche la storia e non basta la cronaca, ho bussato alla porta del professor Ottavio Bianchi. Bentornato Ottavio. Ciao Gigi. Ciao, senti, io comincerei dalla cronaca e quindi dall'Inter. La sensazione diffusa è che adesso sia una squadra che ha perso magari qualcosina sul piano nazionale, diciamo, e lo dimostra la classifica che è deficitaria rispetto alle ultime stagioni, però ha indubbiamente acquistato una caratura europea. Condividi questa analisi? Senza dubbio, sicuramente sì, anche perché a livello internazionale è meno nervosa. Si fa prendere meno da certi atteggiamenti, sì, e riesce ad esprimersi al meglio. Ha la consapevolezza di essere una grande squadra, arrivando nelle semifinali in Champions League bisogna avere la sicurezza e l'autostima necessaria, oltre ad avere un grande organico, guidata molto bene e una buona società. A questo punto, secondo me, la partita è molto bella contro il Barcellona. Il Barcellona gioca un calcio che a me piace moltissimo. Io ho questa mania di vedere il Barcellona da tanto tempo, perché gioca un calcio rasoterra con dei giocatori straordinari che interpretano il gioco del calcio in maniera splendida. E non è solo Messi, ma l'esaltazione, proprio anche perché la bellezza del calcio del Barcellona è che esalta proprio la definizione che dice che le qualità del singolo esaltano il collettivo viene esaltato dalle qualità del singolo. Certo. Senti, il fatto che ci sia stata tra settembre e ottobre quella doppia sfida col Barcellona in cui non ci fu granché partita, tra l'altro Messi non c'era nemmeno al ritorno al Camp Nou, quel precedente così recente servirà, lo dico in ottica Inter, ma lo si può vedere anche dall'ottica Barcellona, perché poi è speculare, servirà sarà utile oppure condizionerà? Secondo me è utilissimo, ma solo per l'Inter, perché chiaramente il Barcellona è monotematico, giocando un calcio del genere non può permettersi il lusso di avere altre alternative, gioca talmente bene così che va in campo con questa interpretazione. Le altre, anche grandi squadre come l'Inter, hanno anche la possibilità di cambiare in corsa la partita, facendo tesoro dell'esperienza negativa dove non c'è stata partita, dove c'è stata una lezione di calcio da parte del Barcellona. Certo. E questo in questo momento sarà sicuramente a vantaggio dell'Inter che, con tutte queste sfaccettature, io penso che sia molto aperta la partita. Uno può giocare un calcio spettacolare se glielo fanno fare, sì, perché non dimentichiamo che il Chelsea dell'anno scorso con Higgins ha bloccato moltissimo il Barcellona. Questa fantasia del Barcellona, e io ritengo che l'Inter abbia quelle qualità, quella determinazione, quella sicurezza che dove può mettere in difficoltà il Barcellona, perché il Barcellona non è imbattibile, specialmente nella linea difensiva. Se subisci è chiaro che non c'è match, ma se gli fai paura, gli fai pressione, vanno in difficoltà anche loro. Certo, la riprova si è avuta ieri sera. È vero che mancava la coppia centrale titolare, Puyol-Piqué, e che c'erano i due rincalzi di Russo, ma pur sempre rincalzi Marquez e Milito, il fratello di Diego. Però la grandezza, io credo che, ma adesso mi correggi tu se sbaglio, credo che senza Messi ieri sera non so che partita avremmo visto, perché quando Bednar ha segnato il gol del vantaggio dell'Arsenal, Eravamo a quarto d'ora circa del primo tempo ed era il terzo gol consecutivo che il Barcellona subiva, perché il Barcellona vinceva 2-0 a Londra, ne ha beccati due a Londra nel finale e uno ieri praticamente in apertura. Se Messi non trova subito il colpo dell'1-1 e poco dopo il colpo del 2-1, forse già ieri sera il Barcellona rischiava qualcosa di serio. Sì, non dimentichiamo che anche sull'1-0 un fuorigioco non dato, la chiara occasione da gol. Sì. C'era per l'Arsenal, ha sbagliato il secondo e poi l'Arsenal in difesa dimostra tutte le sue carenze, come ha fatto come in Premier nel loro campionato inglese. Cioè, è una squadra, esaltare il Barcellona in questo momento era giocare contro l'Arsenal, che gioca la mano, un tipo di calcio simile, senza avere le qualità. E poi non dimentichiamo che mancava il giocatore trainante nell'Arsenal, che è Fabregas. Certo. Guarda caso, anche lui un ragazzino giovane, un ragazzino spagnolo. La bellezza di queste due squadre, dove mi diverte, è che la maggior parte dei componenti della rosa sono giocatori del vivaio. Certo. E questo ti dà l'impressione, almeno a me dà l'impressione, di questo attaccamento, di questo entusiasmo. Faccio un esempio: se io mando a vedere un giocatore da un osservatore e mi porta una relazioncina in cui dice giornalistica, la straccio. Mi interessa se dice che il giocatore è in osservazione, come interpreta la partita, quali relazioni ha con i compagni, con la panchina, con l'avversario, con l'arbitro, se si prende responsabilità o meno. Queste sono le cose a quei livelli e tu vedi che l'attaccamento di questi ragazzi del Barcellona e anche dell'Arsenal, proprio perché hanno vissuto, che tu sei un discepolo di Rocco, hanno sentito l'odore di canfora dello spogliatoio del Barcellona. Sì, sì, difatti, sono cresciuti lì, Messi compreso, certo. E quindi la cantera non solo, ma la loro intenzione ferma è di riprendersi proprio Fabregas, un'altra trattativa avanzata, quindi... Certo. Beh, insomma, diciamo che abbiamo inquadrato la cronaca con una proiezione. Adesso, subito dopo l'intervallo per il traffico, Ottavio Bianchi ci farà una lezione magistrale, se io la chiamo. Perché? Perché insomma, Messi è un piccolo di statura, immenso, ma piccolo di statura, mancino argentino. E allora dovete sapere che nel dopoguerra ce ne sono stati tre, uno più grande dell'altro cronologicamente, Omar Sivori, Diego Maradona e adesso Leo Messi. E Ottavio Bianchi, prima di diventare un tifoso, diciamolo pure, un grande appassionato, un cultore dell'arte calcistica di Leo Messi, ha avuto la fortuna di giocare con Sivori e di allenare Maradona. Dicevo di questi tre fuoriclasse argentini che si sono succeduti a distanza regolare nel dopoguerra, un intervallo di circa 20 anni più o meno l'uno dall'altro, e tra l'altro curiosamente diminuendo sempre, mentre la statura media mondiale va crescendo, sempre diminuendo di un tantino, perché Sivori era un po' più alto di Maradona è un po' più alto, comunque un po' meno piccolo di Messi, ma il talento di questi tre, con enormi differenze caratteriali e tutto quanto vogliamo, indubbiamente è una suggestione. Partiamo da Sivori, Ottavio, con cui tu hai giocato nel Napoli? Fa piacere ricordare Omar, perché in Argentina non è ricordato, perché è venuto in Italia da molto, molto presto, ma noi italiani lo ricordiamo benissimo. Io in particolare ci ho giocato vicino, è un talento straordinario. Ecco, quello che contraddistingue tutti questi tre grandi è proprio il talento. Quando uno dice talento, poi uno lo esprime in una maniera e in un'altra, al di là poi che sono sinistri tutti e due e tutti e tre, e poi questa grande capacità che solo questi grandissimi hanno, che quando si dice hanno gli occhi anche da dietro, lo sguardo periferico. Se tu analizzi tutti e tre con tempi diversi, ritmi diversi, capacità diverse, però la grande tecnica individuale, la grande capacità di analizzare, di leggere il momento della situazione, dell'avversario, di saper fare il numero, anticipare decisamente l'azione dell'avversario, come hai visto anche ieri sera. Sì. E Sivori, Omar era maestro, ha fatto delle cose, faceva delle cose intelligente, furbo, lazzarone, ma il talento era uno spettacolo, poi arguto, anche con una ironia piuttosto incisiva, e anche a parole, era veramente un grandissimo personaggio, un grandissimo personaggio di quel periodo, ed è giusto ricordare che in quel periodo è stato uno dei grandi, come certo. È stato grande Maradona dopo e come sicuramente lo è adesso Leo Messi, che secondo me è lo spot migliore che in questo momento il calcio possa avere, certo. Un calcio che non occorre essere alti, giustamente, non occorre avere grandi qualità fisiche, ma che esprime la purezza, la leggerezza, la flessibilità articolare, la facilità di tocco, di interpretazione, di saper leggere, di velocizzare, tutto con estrema facilità, perché noi vediamo che questi tre grandi giocatori fanno tutte le cose difficili con una semplicità impressionante, ed è questa le grandi qualità. Certo. Io non ho pensato prima di raccomandare agli ascoltatori di prendere appunti, ma insomma qualcuno, poi tanto conoscete tutti i mezzi, no? Perché, che ci sono oggi per registrare e riascoltare. Beh, questa, io ho detto lezione magistralis, non scherzavo mica molto, non era ironico. Non mi mettere in difficoltà. No, io non ti metto in imbarazzo, Ottavio, ma è così davvero, perché tu hai fatto un ritratto intrecciato di tre grandi campioni che era veramente emozionante. Senti, è chiaro che l'evoluzione del calcio fa sì che oggi Messi faccia, diciamo, a 40, adesso io semplifico, ma faccia a 40 all'ora quello che Maradona faceva a 30 e Sivori a 20. Ma senza mancare di rispetto, penso io, però no, correggimi. La verità, però prima c'era una marcatura d'uomo. Prima il fallo da dietro era ammesso, sì. Prima la trattenuta era ammessa, prima lo sputacchio o qualcosa di peggio, sì. Non c'erano le possibilità di telecamere, la televisione, di vedere, dovevi avere qualche cosa in più anche sotto questo profilo, che il coraggio, la cattiveria che Omar aveva, sì. Che adesso non è necessaria fortunatamente, perché non è ammesso. Il ritmo certamente erano diversi, ma è molto semplice. Prima la regola era stoppi la palla, guardi e nello spazio il tuo compagno tu butti la palla per l'inserimento. Adesso è completamente diverso, adesso se fai questo sei raddoppiato, adesso il movimento, tu devi buttare la palla nello spazio creato dal movimento senza palla del tuo compagno, certo. Vedi che è chiaro, è tutto in funzione diversa, la velocità di base è cambiato, ed è questa la grandezza di questo nuovo giocatore, che riesce ad avere, a fare certe raffinatezze tecniche ad una velocità elevata. Però non sono così sicuro a dire se Omar giocasse adesso, io sono convinto che forse allenandosi qualcosa in più, sì, magari a fare comunque grandissime cose, qualche sigaretta di meno, prendiamoli per il loro periodo, no, il loro periodo sono certo. Stati più bravi. Certo, non c'è dubbio, ma infatti non era assolutamente una diminuzio o una mancanza di rispetto, era semplicemente l'inquadramento nelle varie epoche. Un ascoltatore fa notare: Messi forse è più ambidestro sia di Maradona che di Sivori, anche ieri ha segnato col destro, un altro ci è andato vicino, insomma l'ha allargato un po' sull'1-0 o forse sullo 0-0, però questo piede lo usa un po' più degli altri due, è vero? Sivori non lo usava assolutamente. Sivori no, non scendeva nemmeno in allenamento. Quando si faceva solo destro era bravissimo lo stesso, quando giocavi di tocco solo sinistro, solo destro, e chiaramente era bravissimo, altro che lui riusciva a fare delle cose con questo sinistro, anche facendo i tiri incrociati così, che si esaltava, ma non era carente decisamente. E Messi invece è talmente bravo che anche ieri, quando ha fatto sedere Silvestre, che poi ha buttato sulla destra, sì. Tutti si aspettano che lui vada per incrociare, per liberarsi sul sinistro, e chiaramente l'avversario non, non ti cura il lato destro, lui è rientrato lì e vedi che è sempre in piena evoluzione, perché è un ragazzo giovane, ma un ragazzo che ogni anno fa qualche cosa di diverso, come tutti i grandi devono fare. Certo. Senti, caratterialmente, tu hai detto all'inizio che Sivori era, no, non hai usato la parola cattivo, ma insomma Sivori era uno, hai detto che calcio era, no? Con molte meno telecamere e quindi con molti più duelli rusticani. Mi sembra che anche lì ci sia un'evoluzione, nel senso che Sivori ha avuto molti tumulti, molte squalifiche, molte espulsioni in carriera. Maradona, i suoi guai li ha avuti, mi pare, solo fuori dal campo, perché in campo era molto amato e rispettato e direi anche abbastanza educato. Messi addirittura sembra più avuto un altro pianeta, cioè sembra non so nemmeno definirlo, ma di una dolcezza infinita in qualunque fase della partita. Il bene del calcio, perché guarda solo l'amore che riversa nei confronti dei compagni, sì. Proprio questa voglia quando lui fa una grande cosa, fa un bel gol, una bella azione, vedi dagli occhi dei compagni l'entusiasmo, non c'è nessuna gelosia, lui non si autoespone, non va mai oltre le righe, e ti dico che secondo me dentro nel Barcellona ce ne sono di grande personalità e di giocatori di grandissimo talento, no? Eppure vedono in lui giustamente queste grandi qualità, e lui secondo me, vedendo dall'esterno, siccome mi affascina più questo aspetto che l'altro, l'aspetto psicologico dei rapporti, vedi proprio che in ogni atteggiamento non è mai studiato, hanno proprio la volontà, la voglia di vederlo sorridere, e anche lui vedi che non si sbraccia, aspetta sempre l'abbraccio dei compagni, ma in maniera molto, molto spontanea. Giustamente hai usato il termine che identifica Messi, secondo me la dolcezza. La dolcezza è stupefacente addirittura. Senti, anche per scaramanzia, lo hai già anticipato, ma insomma, visto da fuori, perché poi è sempre da lì che noi siamo costretti a vedere in questo momento, non c'è il timore che si possa rovinare, insomma, ce ne abbiamo visti, no? Di talenti, abbiamo visto un Ronaldo, il primo Ronaldo, quello più vero, quest'altro ha problemi, torniamo ad Adrian, insomma, quanti talenti di questo livello anche in casa nostra si sono persi o stanno rischiando di perdersi per problemi caratteriali? Da fuori sembrerebbe in questo momento scongiurabile questo pericolo. Sì, te lo dico, io spero vivamente per il calcio, perché è talmente pulito, cioè non vedi mai una cosa diversa, non, anche quando parli rispetto mi sembra Federer, tossico, sì. Mi sembra quei giocatori che sono talmente bravi e che sono rispettati ed amati dai compagni e dagli avversari. Lo sport, in un momento molto particolare come tutta la vita sociale da adesso, ha bisogno di questo. Mi auguro che sia anche perché tu lo sai che abbiamo frequentato per via traverse i veterani del Barcellona e tu sai l'humus, le qualità di questa maglia, di questa voglia di aggregazione, e penso che sia un grande vantaggio vivere in questo momento nel mondo del Barcellona, dove tutto trasuda di blaugrana, tutto è amore nei confronti sia dei vecchi giocatori, nei nuovi, nel futuro. Tu lo sai a chi mi riferisco. Mi sembra che, io perlomeno me lo auguro, perché è talmente bello vedere un giocatore di talento esprimersi con questa semplicità che mi dispiacerebbe molto, mi costringerebbe a non guardare più il calcio. Cosa che già stavi rischiando di fare prima, quando sei rimasto folgorato sulla via di Barcellona e di Leo Messi. Ottavio, grazie. Grazie a te, saluto. Ciao. Grazie di questa lezione accademica, davvero. Molto apprezzata gli ascoltatori, come sto vedendo. Poi c'è anche, per la verità, l'ultimo messaggio. Piero a Torino scrive: ma perché appena si presenta un nuovo fenomeno come Messi si fanno subito paragoni col passato? Maradona e Maradona, Sivori e Sivori, Messi e Messi. Ed è esatto, Piero, ha sentito parlare di paragoni? Mi ha sentito far domande di classifiche? Ho chiesto a uno che li ha conosciuti bene tutti e tre, anzi benissimo, le caratteristiche di ciascuno e qual è il fil rouge che unisce tre mancini argentini fenomeni del nostro dopoguerra. Vabbè, che ci sono gli incontentabili, e questo fa parte, no, direi, della dotazione di qualsiasi programma che si rispetti. Ma perché, domanda Fausto, che scrive da Casale sul Sile, in provincia di Treviso, perché Messi così determinante nel Barcellona e così anonimo nell'Argentina di Maradona? Io credo che Bianchi indirettamente l'abbia spiegato. No, lo ha spiegato direttamente per quanto riguarda il Barcellona, quando ha detto che è una squadra che comunque gioca a memoria, è una squadra che ha un collettivo di una raffinatezza tale da esaltare il singolo e ha dei singoli così bravi da impreziosire il collettivo, perché è sempre in andata e ritorno quando tutto funziona davvero al meglio, cosa che non accade nell'Argentina di Maradona, dove invece la squadra è molto più precaria, è molto più campata in aria, insomma, e non sempre là le somme dei talenti, mancando un telaio comune, mancando lo spartito, come lo chiamava Sacchi, da interpretare in maniera artistica ma anche rigorosa, e mancando quello diventa più difficile. Scrive Duccio da Bergamo: va bene parlare di grande Barcellona e di gran gioco, ma se Messi avesse giocato nell'Arsenal ieri sera avrebbe vinto l'Arsenal. Ieri sera probabilmente sì, anzi direi proprio di sì, però attenzione sempre a non dimenticare che lo straordinario Messi di ieri sera nel Barcellona Inter 2-0, ma 2-0 da no contest di 6 mesi fa, non c'era, non giocò quella partita, quindi stiamo parlando di una grande squadra a prescindere da Messi. Poi è ovvio che stiamo parlando di un grandissimo campione all'interno di una grande squadra. Elia, Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, a lei. Grazie per l'opportunità che mi date. Io sono un tifoso del Barcellona, ex interista pentito dopo la vendita di Ibrahimovic. Le volevo chiedere, secondo me l'Inter con questo Messi stellare e con questa squadra eccezionale è arrivato al capolinea. Lei cosa ne pensa della sfida Inter-Barcellona? Penso che nonostante Ibrahimovic sia favorito il Barcellona, no, lo dico nonostante Ibrahimovic, perché l'idea di trasmigrare il proprio tifo al seguito di Ibrahimovic mi sembra abbastanza curioso, mi sembra singolare come posizione. Io credo che per qualità di gioco, per personalità, per abitudine a questo genere di confronti, il Barcellona comunque anche per qualità individuale, per somma di qualità individuali, io credo che il Barcellona resti favorito. Credo però anche che mentre le distanze, l'ha detto bene Bianchi prima, mentre le distanze in autunno erano ancora molto nette, adesso si siano davvero davvero molto accorciate, e credo che l'Inter intanto può benissimo vincerla, perché non è un pronostico chiuso quello di questa semifinale, è un pronostico in cui il Barcellona è leggermente favorito, ma non lo è nelle stesse proporzioni in cui lo era quel doppio confronto, tra l'altro poi non determinante ai fini del dentro fuori, perché eravamo in un girone, il confronto d'autunno. Marco Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Galanzini. Dica. No, mi può sorridere perché io sono uno interista, però sentire quello che ha detto il radioascoltatore precedente mi fa un po' sorridere, anche perché mi sembra che l'Inter si sia un po' liberata dallo schema di gioco di Ibrahimovic. Più a palla lunga Ibrahimovic, mi sembra di vedere l'Inter giocare un po' meglio. Comunque ognuno ha le proprie conclusioni, ma sì, la mia domanda era... ciascuno ha i suoi gusti, e poi probabilmente, insomma, può anche darsi che l'assenza di Ibrahimovic in campionato pesi, no? Mi sembra di capire, qualche partita, tante partite Ibrahimovic le risolveva magari da solo, no? Con uno o più prodezze individuali, e però poi mancava a quel livello. Quest'anno nel Barcellona sta facendo il contrario, non benissimo in campionato e invece più prezioso in Coppa, perlomeno ultimamente. Sono le contraddizioni del calcio e dei campioni. D'accordo, ma la mia domanda era su Messi, sì. E in particolare su quello che ha detto il mister Bianchi, molto interessante è stata la vostra i vostri minuti precedenti. Volevo chiedere, secondo lei è un caso che sia Maradona e Messi, tutti e due argentini, tutti e due sinistri, siano passati per il Barcellona? E la seconda domanda è questa: se secondo lei Messi potremmo un giorno vederlo in Italia, anche se ahimè penso che il calcio italiano e il sistema calcio italiano sia cambiato troppo. La ringrazio e buongiorno. Dunque, passati per il Barcellona, sì, passati anche per il Napoli, perché Sivori e Maradona sono passati anche per il Napoli. Maradona e Messi sono passati per entrambi per il Barcellona. Ricordiamo che Sivori, quando arrivò a Napoli, era nella seconda e meno brillante fase della carriera, perché la prima e la più compiuta è stata quella della Juventus. Può essere. Che vediamo Messi in Italia? Sì, ogni tanto, quando il sorteggio oppone una squadra italiana al Barcellona, lo vediamo, per il resto non credo. Ho appena letto una curiosa notizia dell'agenzia in cui Enrico Preziosi, presidente del Genoa, svela quando Messi aveva 15 anni lo scartammo dal Como dopo un provino, lo seguivamo da quando ne aveva 14, ha raccontato Preziosi, era già un fenomeno, ma non si decise di prenderlo per varie situazioni del Como di allora. Come sempre accade, qualche volta si fanno gli errori, ma non c'è nemmeno rammarico, perché nemmeno lo ingaggiammo. Vabbè, e questa è una curiosità, appunto, che è appena uscita sulle agenzie. Ovviamente i giornali spagnoli, ma anche i giornali inglesi, celebrano questa quaterna di Messi ieri sera con a caratteri cubitali e con aggettivazioni che per l'appunto vengono riservate in questi casi davvero ai fuoriclasse. Io sentirei l'audio, mi pare, no? che è stato, abbiamo selezionato un audio del quarto gol di Messi, quello la ciliegina sulla torta. Que quiere entrar en la historia y si no quiere lo hace. Impresionante. Y el público del Camp Nou grita esto. Messi, Messi, Messi. Beh, ieri sera si sono levati la voglia, credo, di rendere omaggio a questo straordinario campione. Parliamo adesso di prospettive di Coppa. Chiedo un attimo di pazienza ai due ascoltatori già collegati. Parliamo di prospettive e sentiamo sia Mourinho che Guardiola praticamente sulla sfida che li attende, ma nell'ottica di Mourinho soprattutto questo nuovo atteggiamento mentale che l'Inter ha acquisito tappa dopo tappa in questa stagione. Sono 5 vittorie consecutive in Champions, non solo arrivare a semifinale, però arrivare a semifinale di un modo meritato e confortabile. Sono 5 vittorie consecutive, questo è un cambio totale nella storia dell'Inter negli ultimi anni in Champions. Una squadra con fiducia, con capacità, che può vincere Champions o no, però che in questo momento è una Inter da Champions. Può succedere di tutto in semifinale, in finale, però sicuramente l'Inter prossima stagione arriva a Champions. Il primo piede che mette in questa competizione sarà un piede pieno di fiducia. Mi sembra che la storia dell'Inter nella Champions è cambiata e se vinciamo la Champions quest'anno, ottimo. Se non vinciamo, l'Inter vincerà. E vincerà fra pochi anni, perché in questo momento sta nella strada. Questa l'avevo già ascoltata ieri sera in diretta, mi aveva molto colpito il cambio di verbo che Mourinho fa nel finale in maniera molto molto calcolata, e non l'ho sentita cogliere da nessun altro. Lui forse potremmo riascoltare gli ultimi 10 secondi quando lui dice: se non vinciamo Champions quest'anno, l'Inter la può vincere il prossimo anno. Dice una cosa secondo me molto significativa. Proviamo a risentire quest'ultima parte. Sarà un piede pieno di fiducia. Mi sembra che la storia dell'Inter nella Champions è cambiata. E se vinciamo la Champions quest'anno, ottimo. Se non vinciamo, l'Inter vincerà fra pochi anni, perché in questo momento sta nella strada. stamattina, ho dragato tutti i giornali stamattina alla ricerca di una, così, di una sottolineatura di questa curiosità che ieri sera mi ha molto colpito quando l'ho sentita in tempo reale, mi ha altrettanto colpito adesso, perché Mourinho è uno che l'italiano l'ha imparato molto bene prima ancora di venire, e secondo me questo cambio di soggetto da noi vinciamo all'Inter vince o vincerà non mi suona molto, molto casuale. Ogni tanto arrivano dei messaggi che meritano un voto alto in pagella. Francesco Barbieri da Verona, che non è nuovo a questo genere di prodezze, scrive: Messi non saprà mai quanta fortuna ha avuto ad essere scartato da Preziosi. Ha chiamato Enzo dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io a proposito, volevo dire, veramente proprio in questi giorni, in questi tempi di fuori classe e di rush finali, pensavo, ma se il Napoli riesce ad arrivare in Champions e quindi si troverà a dover magari rimpinguare, rinforzare, non che sia debole, anzi ci sono dei giocatori fortissimi, però pensavo, anche facendo tutti i riferimenti del caso, a prendere Messi, comprare Messi per l'anno prossimo, lei che sicuramente è molto più conosce molto meglio di me, è una cosa fattibile, possibile, sì come? Sì, come la vede? Può succedere di no, il problema è svegliarsi su dati dopo, quando si formulano di queste, no, di queste cose, è che ti svegli soprassalto sudato e ti ritrovi con, adesso non dico carannante perché non voglio mancare di rispetto a nessuno, però insomma non credo che siamo fuori portati. C'era Preziosi che lo poteva prendere, ma gli è scappato, sentito, no? Gli è scappato per il classico pelo. Marco, provincia di Ravenna, buongiorno. Salve Granzini. Dica. Sentire la voce pacata di Ottavio Bianchi mi ha riportato un po' la mia adolescenza, quando frequentavo il ritiro del Napoli nelle Prealpi bresciane. E volevo portare un aneddoto, se posso, per dare la misura della grandezza del personaggio. Io chiedevo gli autografi a tutti e aspettai anche Bianchi all'uscita del centro sportivo, e lui uscì in automobile guidata da Luciano Castellini, il Giaguaro, e partì di gran carriera. Quando Bianchi vide che volevo l'autografo, gli fece fare retromarcia e mi fece l'autografo, ma poi mi disse: si ricordi che i protagonisti sono i giocatori, quindi gli autografi li chieda a loro, e mi salutò. E per me fu un momento anche di insegnamento, di umiltà da parte di Bianchi, che lo ricordo ancora con piacere, quindi volevo salutarlo. Farà piacere anche a lui che lei si ricordi a distanza di così tanti anni di un aneddoto così colto, no? Direi così, abbastanza raro, oltre che raffinato. Enzo da Altamura dice: cosa dirà Mourinho se verrà confermato lo sciopero della Liga per sabato 17 a ridosso del ritorno? Certamente penserà che, cioè, certamente la girerà a suo vantaggio mediatico, ma insomma di tempo nel frattempo ne deve scorrere, perché è vero che per sabato 17 e domenica 18 c'è uno sciopero della Liga già proclamato dai calciatori, che in origine era stato fissato per il fine settimana precedente, cioè quello che viene, e poi è stato rinviato invece una settimana, io credo per non interferire proprio con Real Barcellona, che è in programma la sera di questo sabato alle 22. Adesso è fissato per quella settimana. È chiaro che se Barcellona non giocasse riposerebbe un giorno in più. È chiaro anche, io credo, che nessuno abbia interesse con i mondiali vicini e con il calendario compresso a rinviare comunque degli appuntamenti. Tanto vale giocarsene, perché la preparazione che hai fatto è programmata ormai per queste grandi squadre, Barcellona, Inter e le altre ancora in lizza su tre fronti, due nel caso del Barcellona, è programmata per giocare sempre, e quindi alla fine secondo me si risolverebbe, se non in un danno, in qualcosa di simile. Mi pare che il fatto di aver riposato un giorno, una giornata in più al CSKA non abbia giovato per nulla, era una delle tante pugnette murignane della vigilia, no? Mi pare il sintetico è stato stupendamente superato, senza nemmeno una piega. Intersintetica ha titolato stamane il Corriere della Sera in maniera molto, molto brillante, nel senso che in sei minuti ha risolto questa pratica, e quindi alla fine tutte queste sono quelle schermali della vigilia in cui si distinguono per l'appunto gli allenatori diciamo di un certo genere rispetto a quelli di un certo altro. Oggi abbiamo già ripassato discretamente la storia, grazie a Ottavio Bianchi, grazie ai suoi racconti su Sivori, su Maradona e sul calcio di quell'epoca, però questo non toglie che dobbiamo ancora sentirci Nicola Filippone. Sembra ieri. 7 aprile 1973. La Fiorentina di Lidolm riesce nell'impresa di battere per 2-1 la Juventus, che si sarebbe poi laureata campione d'Italia. Il gol partita è una prodezza di un ragazzo di soli 18 anni, Claudio Desolati, che aggira con un dribbling Morini e poi mette a sedere un'autorità come Dino Zoff. È un numero che appare come il preludio a una grandissima carriera, ma Desolati, complici alcuni gravi infortuni, pur rimanendo in viola per 10 stagioni, non riuscirà ad esprimere in pieno il proprio potenziale. Eppure, il gol segnato a Zoff da quel diciottenne rimarrà nella memoria dei tifosi della Fiorentina come un capolavoro di classe, sfrontatezza e personalità. Vero, vero, vero anche questo. Daniele ha chiamato da Firenze a proposito, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche ai radioascoltatori. È singolare che questo passaggio audio è stato un po' quello che io volevo dire, una parte. Allora, a proposito di Messi, credo che molto, ovviamente non si discute la classe cristallina, molto dipenda anche dall'estrema umiltà dell'allenatore che magari lo differenzia, non faccio nome, ma da altri allenatori che preferiscono quasi rubare la scena ai calciatori, a differenza di Ottavio Bianchi, quello che diceva, ma lo stesso atteggiamento si può ritrovare anche in Guardiola. Penso che molta della crescita di Messi sia proprio dovuta anche al fatto di lavorare in un certo ambiente con un certo tipo di allenatore che esalta i giocatori piuttosto che la propria persona. E la seconda appunto era questa, giustamente adesso Messi si mette nell'Olimpo di quelli che sono stati i mostri sacri del calcio, per me in assoluto, subito dopo Pelé io personalmente metto Roberto Baggio, e da tifoso ovviamente della Fiorentina, ma anche era quello che si diceva adesso di Desolati, questo atteggiamento, volevo sapere cosa ne pensa lei riguardo a questo, che io sono convintissimo che se invece di Baggio e Desolati si fossero chiamati Baggigno o Desolatovic, sarebbero stati magari messi nell'Olimpo dei giocatori più forti di tutti i tempi. Cioè questa un po' quest'esterofilia che abbiamo noi, che tutto quello che viene dall'estero lo esaltiamo, tutto sì, quello senza esagerare. Io credo che insomma ci siano i Messi e poi ce ne siano. E poi ci siano altri, insomma, con qualche significativa differenza, senza poi fare troppa confusione con Desolati, con tutto rispetto per il giocatore che è stato. Ma insomma, non facciamo, cerchiamo di non fare confusioni finché è possibile e finché non è poi così difficile. No? Marco, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garanzini. Dica. È stato detto prima, chissà cosa dice Mourinho se spostano, se fanno lo sciopero in Spagna prima del ritorno di Inter Barcellona. Però c'è anche da dire che non gli, danno sempre modo a Mourinho di dire qualcosa, perché ieri ho sentito ad esempio che Roma Udinese di Coppa Italia sarà spostata per dar modo alla Roma di preparare il derby con la Lazio. Cosa ne pensa lei? No, penso che non sia vero, perché questa data era già stata, è stata fissata da tempo e non farei confusioni di questo genere. Credo che insomma, in questo momento cercherei di evitare il più possibile queste sciocchezze, e cercherei invece di ricordare, come stamane hanno fatto tanti milanesi nella chiesa di San Gioacchino, di ricordare Maurizio Mosca, di cui si sono celebrati stamane i funerali con una folla che ha reso troppo piccola questa chiesa, con molti rappresentanti del mondo del calcio, oltre che della carta stampata e della televisione, che si è stretta per quest'ultimo saluto a una persona buona, gentile e molto per bene, e molto diversa da come aveva scelto, a parer mio sbagliando, di voler apparire, che è stato Maurizio Mosca. Le 14:56 e 22, grazie a Pietro Lacorte in regia, a Flavio Suardi e a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.